Cazzo volete la mia vita? Cazzo volete che vi parlo della mia vita? Cazzo per le mie emozioni, zio, di ciò che sono, di ciò che faccio. Ma la mia vita è tutta rose e fiori. Bugiardo. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa mie insaputa. Siamo le solite, parole solide, scuse non valide, io e te solite. Cerchiamo di capirci, di vederci chiaro, ma qualcosa non va, forse nel mio italiano. E non parliamo, che forse è meglio, diamoci un taglio a questo impegno. Rimango sveglio la notte, porta consiglio, chi dorme non piglia pesci, sta tipa non batte ciglio. Non mi ripiglio, più peso troppe scotte, alcol, fumo, bombe, trip, bamba, figa e forte. Troppe mignotte, peggio troppe bambine, qui si porta la fiducia per un pacco di cartine. Io non ci sto più dentro, e di una zoccola non mi accontento. Fanculo a tutti, anche al progetto M300, ogni amico a pagamento, è la troia del momento. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa e mie zappiva. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa e mie zappiva. Il tuo viso, i tuoi occhi, il tuo sguardo fa mille fuochi. Siamo alle solite e mi invochi la sbronza. Io mi innamoro sempre di una più stronza. Che cazzo posso farci? Calpesterò il mio orgoglio per arrivare ad ottenere ciò che voglio. Cancello amici falsi, li straccio come un foglio, come faceva Pa con la foto di me nel portafoglio. Adesso basta, adesso non ho più fiducia. Estatemi lontano, vomito odio che brucia. Sputo veleno che contagia, tu già sei il candidato mio prescelto al primo sputo in faccia. Che cazzo ho combinato, che cazzo ho costruito, quel che girava attorno a me mondo fallito. Coglione io, peggio rincoglionito, che ho giocato le mie carte in modo troppo pulito. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa mia insaputa. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa mia insaputa. Vedi piccole, prendilo da bigliettino, fidati di me, vieni qui vicino. Se gli sguardi che hai per me poi li hai per gli altri, vieni qui con me, o San Valentino. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa mia insaputa. Sai di nuovo che c'è che mi sbatto di te, di tutti quelli che si schierano contro me, di ogni amicizia schifosa fottuta, della tua invidia l'insidia, le tue mossa mia insaputa. Sai che c'è che Yeah.